Bibliografia. Cristianesimi nell'antichità, Giancarlo Rinaldi Edizioni GBU, settembre 2008. Compendio del pensiero cristiano Tony Lane, Voce della Bibbia, 1994. L'infallibilità della Chiesa, George Salmon a Cura della Chiesa di Cristo, 1960. Nessun essere umano può esprimersi al di fuori della sua cultura. Questo assioma vale per tutti, sia per i profeti precedenti Cristo, cioè coloro che hanno parlato da parte di Dio, sia per i primi padri della Chiesa cristiana che erano gentili, cioè greci e romani, e quindi non ebrei. Proprio per questo, a mano che facevano propria la fede cristiana e la presentavano ai loro contemporanei, erano costretti a rapportarla ai modelli di pensiero della loro società, modelli tutti basati sulla filosofia greca. Le maggiori scuole di filosofia che condizionarono i primi scrittori cristiani furono tre: il platonismo, l'aristotelismo e lo stoicismo. Il platonismo fu fondato da Platone, morto nell'anno 347 p.C., ex discepolo di Socrate, morto nel 399 a.C. L'aristotelismo fu fondato da un discepolo di Platone, Aristotele, che morì nel 322 p.C. Lo stoicismo fu fondato da Zenone, che morì nel 263 p.C. Queste scuole di pensiero, al principio del periodo ascendente dell'era cristiana, si erano ormai grandemente influenzate a vicenda, e gli scrittori cristiani, non ebrei impregnati di tale filosofia meno, quando dovettero esprimere la fede cristiana in relazione alla loro eredità greca, non sempre ebbero il giusto accostamento alla lettura dei libri sacri. Alcuni esempi. Il Dio greco è immutabile e appartiene alla sfera dell'essere, non può avere nessun contatto diretto con questo mondo. Egli ha dunque bisogno di un mediatore. Questo pensiero, pur avvicinandosi al cristianesimo biblico, ne rimane distinto in diversi punti. I greci erano giunti, sì, a una fede monoteistica e ad una rappresentazione di un Dio sovrano, immutabile e impassibile. Ma il Dio della Bibbia, fattosi uomo, comunica con gli uomini e soffre. La sovranità di Dio e la sua aseità, cioè la sua autosufficienza, darà avvio a tante dottrine storpiate come la predestinazione alla salvezza e perdizione. Il pensiero greco nutriva disprezzo per il mondo creato da un essere minore e poi perché era materiale e soggetto a mutamento. Questo darà avvio all'eresia dell'arianesimo. Sempre per i greci, il corpo è spesso considerato come la prigione dell'anima, che è immortale, per cui da esso deve essere liberato. Il destino dell'uomo è quindi la deificazione, cioè diventare come Dio. Filosofia, del resto, comune ad altre religioni. Tale pensiero darà poi origine al monachesimo. Questi sono alcuni presupposti che occorre tenere presente nello studiare la storia del pensiero cristiano. La storia del cristianesimo, così come quella di ogni altra religione, non può basarsi soltanto sugli antichi testi prodotti dai primi cristiani meno, come i Vangeli e le lettere degli Apostoli meno, ma necessita essere inserita nel contesto della storia politica ed economica nel quale si svolse. Per questo motivo, è più che opportuno indagare nel passato più vicino al sorgere del cristianesimo e, soprattutto, la storia dei quattro concili ecumenici che hanno determinato le formule dottrinali professate ancora oggi dalla moltitudine dei cristiani. Inizialmente, i cristiani pensarono e si espressero secondo le linee del pensiero giudaico, e per questo quelli di fuori credettero che ne costituisse una ramificazione. Eppure, fin dal primo secolo, sorsero antipatie tali tra chiesa e sinagoga da sfociare ben presto nel grande e definitivo divorzio. Altro importante sviluppo dei primi secoli fu costituito dalla diffusione di molteplici interpretazioni del messaggio di Cristo e dalla riflessione teologica, incentrata particolarmente sul tema del rapporto tra Dio Padre e Gesù nell'ambito della divinità. E poiché le verità oggi professate dai cristiani non erano ancora state espresse in calibrate formule dottrinali, Le diverse culture locali lasciarono spazio a diverse cristologie, le quali suscitarono discussioni e controversie molto accese, che furono poi avviate a soluzione meno, anche se non definitivamente, soltanto dai grandi concili ecumenici, cioè universali, del IV e V secolo. Lo scopo di questi concili era quello di identificarsi con l'ortodossia apostolica. È importante soffermarci sulla durezza degli scontri che ebbero luogo nell'antichità tra persone che, sia pur con diversi contenuti e denominazioni, si rifacevano all'insegnamento di Gesù, perché si tratta di un aspetto solitamente poco enfatizzato nella manualistica di storie della Chiesa, e poi perché il lettore moderno, abituato ai toni dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, se non del relativismo e dell'indifferenza, ne ricava un certo disagio. I cristiani dei primi secoli, ognuno per conto proprio, erano assolutamente convinti di essere nel vero, e di conseguenza il dissenziente era fonte di errore. Il concetto di tolleranza applicato a una professione di fede, o il pluralismo e il riconoscimento delle ragioni dell'altro, sono idee strane a quell'epoca, e devono essere ritenute moderne. La prima assemblea di vescovi riunitasi per discutere e definire questioni in materia di fede, di costumi e di disciplina, ossia il primo concilio ecumenico, cioè universale nella storia della cristianità, si tenne a Nicea il 20 maggio del 300. Le principali controversie che travagliavano la cristianità a quel tempo sono connesse alla diffusione di due movimenti eretici, l'arianesimo e il donatismo, cioè quel movimento del cristianesimo che rivendica la totale separazione della Chiesa dallo Stato romano ed esalta il martirio, e che interessò quasi esclusivamente l'Africa romana. L'arianesimo, invece, iniziato ad Alessandria d'Egitto, coinvolse in lungo e in largo la cristianità, ma con prevalenza nelle regioni d'Oriente. Il padre dell'arianesimo è Ario, un colto presbitero alessandrino dall'aspetto austero, dalla lunga chioma da asceta e dai costumi irreprensibili, il quale, grazie al suo modo poetico e seducente, sapeva farsi valere. Argomento principale della sua riflessione teologica era la cristologia, e più in particolare il rapporto che intercorreva tra Gesù, quale figlio di Dio, e Dio in quanto padre. Ario negava la piena divinità di Gesù, riducendo Cristo alla dimensione di più alta creatura di Dio, creata e divenuta, negando che alcune caratteristiche peculiari di Dio Padre potessero essere riferite anche al Figlio. Dio il Padre solo non è generato, non è divenuto, è eterno e senza principio, egli è l'origine assoluta di tutto quanto esiste. Pertanto, solo Dio Padre è l'unico vero Dio. Queste dottrine ebbero un successo tale da causare controversie accanite tra i suoi seguaci e avversari. Le discussioni non avvenivano soltanto tra teologi e vescovi, ma agitavano anche le comunità monastiche e tutto il popolo cristiano. Queste situazioni poco edificanti avevano dato agli increduli pagani argomento di dileggio e mettevano in scena nei loro teatri le dispute e i litigi dei cristiani. L'imperatore Costantino, il cui problema prioritario era raggiungere la pace religiosa tra i suoi sudditi, per ricavarne anche una pace sociale, si decise a convocare il concilio a Nicea, al quale parteciparono circa 300 vescovi di maggioranza orientali, soltanto 5 vescovi provenivano dall'Occidente. Il vescovo di Roma, Silvestro, assente, mandò 2 suoi delegati. Il credo di Nicea fu sottoscritto da tutti i vescovi convenuti, ad eccezione di Ario e 2 suoi sostenitori, i quali conobbero i rigori dell'esilio. Il testo integrale del credo di Nicea, o professione di fede dei 318 padri, un numero questo, che intendeva richiamare alla memoria i 318 bellicosi servi di Abramo citati nel libro della Genesi, 14 e 14, secondo la versione data da Giancarlo Rinaldi nel suo libro Cristianesimi nell'Antichità. 3 cita così: crediamo in un solo Dio, Padre e in un solo Signore, Gesù Cristo, Figlio di Dio, generato unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, secondo i greci consustanziale, mediante il quale tutto è stato fatto, sia ciò che è in cielo sia ciò che è in terra, per noi uomini e per la nostra salvezza. Egli è disceso dal cielo, si è incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto ed è risorto il terzo giorno, è salito nei cieli e verrà per giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo. Ma quelli che dicono ci fu un tempo in cui egli non esisteva, prima che nascesse non era. è stato creato dal nulla, o quelli che dicono che il figlio di Dio è di un'altra sostanza, o di un'altra essenza rispetto al Padre, o che il figlio di Dio è sottomesso al cambiamento e alterazione, questi la Chiesa cattolica e apostolica condanna. Come si nota, questa confessione di fede è incentrata a condannare principalmente l'eresia ariana. E nonostante il grande silenzio in merito ad altre dottrine fondamentali, quali la salvezza per grazia, il perdono eterno già offerto da Dio Padre in Cristo, la persona dello Spirito Santo, riveste comunque una grande importanza nella storia della teologia perché, approvando una definizione di fede, composta da vocaboli non desunti dalla scrittura, ha aperto una porta a una lunga serie di interventi dottrinali, quali hanno inteso esplicare ciò che nelle scritture non è detto, ma che sa. Questo aspetto dovrebbe far riflettere coloro che ritengono che si debba solo usare termini biblici per parlare di ciò che è di proprio del Dio Trino. Va ricordato che l'arianesimo sopravvisse fino al secolo VII. I Goti, per esempio, quando accettarono il cristianesimo all'epoca di Costanzo II, il figlio di Costantino, lo accettarono nella sua forma ariana, per poi scomparire quasi definitivamente. Anche se nel corso dei secoli è stato di tanto in tanto rispolverato da certe denominazioni, come i Testimoni di Geova. Al credente sprovveduto e impreparato, la durezza degli scontri teologici dei primi cristiani potrebbero anche sembrare non degni di chi professa di seguire Cristo. E, se questo in parte è vero, le controversie erano tuttavia inevitabili, sia perché, come abbiamo detto, i cristiani dei primi secoli, ognuno per conto proprio, erano assolutamente convinti di essere nel vero, sia perché ben presto si rese necessario un impegnativo lavoro di traduzione del semplice messaggio di Cristo nelle categorie linguistiche e culturali dell'ellenismo. Nel fare questo, tuttavia, si commise il fatale errore di abbandonare le... Pochi studiosi hanno dato importanza a questa grave lacuna, sia per non aver compreso il fatto, sia anche perché, ancora oggi, si continua a leggere e interpretare un testo ebraico ricorrendo alla terminologia e alla categoria di pensiero platonico. I concetti fondamentali dell'universo culturale e religioso giudaico, quali il peccato, salvezza, Messia, regno di Dio, resurrezione, non possono essere compresi rettamente se non mediante una mente rinnovata dal pensiero ebraico. Ma grazie a Dio, alcuni studiosi delle scritture escono fuori dalla cerchia, mettendo in evidenza la divinità di Gesù, non dal punto di vista filosofico-ellenistico, ma dal giusto punto di vista ebraico. Se Ario e altri come lui avesse interpretato i testi secondo la psicologia e la cultura ebraica, non sarebbe arrivato alle conclusioni alle quali è arrivato. E i cristiani del IV e V secolo avrebbero dimostrato, senza alcuna contraddizione, che Gesù Cristo è Dio partecipe della stessa natura del Padre. Un esempio: se siamo in grado di dimostrare che Yahweh, la divinità di Israele, è Cristo, stando del tutto in linea con le sue stesse ripetute affermazioni, quella divinità che si è fatta vedere, toccare e ha parlato ai padri e ai profeti, com'è possibile mantenere dei dubbi sulla sua divinità? L'errore di Ario, e purtroppo anche di tanti credenti, è quello di pensare che Yahweh sia il Padre. Di conseguenza, ecco sorgere la necessità di fare dei salti mortali con pensieri ellenistici per dimostrare che Gesù Cristo è Dio. Così si trovano due o tre versetti inequivocabili sulla divinità di Gesù e tutto il resto della scrittura resta oggetto di tremende discussioni. Cosa invece che non è possibile una volta stabilito che meno, come dice il credo di Nicea, Cristo è colui mediante il quale tutto è stato fatto, sia ciò che è in cielo, sia ciò che è in terra. E chi ha fatto ogni cosa è Yahweh, cioè Cristo. Se la verità è eterna, la menzogna è molto dura a morire. Fu così che le decisioni prese a Nicea si rivelarono ben presto fragili, per cui, soltanto 3 mesi dopo, 2 vescovi ritirarono la loro firma alla confessione di fede sottoscritta. La litigiosità dei vescovi riaffiorava dopo l'unanimismo del primo momento, anche perché, ritornati alle loro sedi, ai vescovi era difficile giustificare davanti ai credenti l'adozione di un credo religioso cristallizzato in una forma avente, per volere dell'imperatore, autorità di legge, e che inoltre era incentrata su un riferimento a Gesù della stessa sostanza del Padre, di sapore filosofico, e che non si presenta come desunta dal testo biblico. Sta di fatto che già nel 328, solo dopo 3 anni, si registrò un mutamento nell'atteggiamento di Costantino, in direzione filoariana. Eusebio di Nicomedia, precedentemente punito con l'esilio perché condivideva le opinioni di Ario, divenne addirittura consigliere teologico dell'imperatore Costantino. Anche Eusebio di Cesarea, uno dei più grandi storici e ritenuto il padre della storia della Chiesa, appoggiò le idee dell'eretico Ario, anche se dovette in seguito firmare il simbolo di Nicea, con grande angoscia e non poca doppiezza. In questo modo, il partito ariano risollevò la testa. Specialmente all'epoca di Costanzo II, figlio e successore di Costantino, che ne fu un palese simpatizzante, mentre in Oriente fu tutelato dall'imperatore romano Valente. Il Concilio di Nicea divise la Chiesa in 2 tronconi principali. Da una parte il partito niceno, al quale appartenevano l'Occidente, la scuola di Antiochia e altri orientali come Atanasio, dall'altra parte gli origenisti, coloro che seguivano il pensiero di Origene, molto rigidi sulla triunità della divinità, ma meno chiari in tono alla divinità di Gesù Cristo. Infatti, il molto discusso Origene, uno dei padri della Chiesa, nato attorno al 185, insegnava sì l'essenza trina di Dio, ma la sua era una trinità gerarchica. Il Padre è più grande del Figlio, il quale è più grande dello Spirito Santo. Un secolo più tardi, Ario avrebbe sviluppato ulteriormente questo concetto non privo di senso greco, seguendo una teologia completamente permeata di platonismo. Così, il pensiero greco divenne il pensiero di molti cristiani. Nonostante tutto, il credo di Nicea tornò a imporsi incontrastato con il successivo concilio di Costantinopoli del 381. Una nota storica è che il concilio di Nicea legiferò anche in merito alla data della celebrazione della festa di Pasqua, che era stata argomento di contesa sin dal secolo II. Esso individuò il giorno festivo della domenica successiva al 14 del mese giudaico di Nisan. Il trionfo della dottrina ortodossa, più che all'accordo tra i litigiosissimi vescovi, fu affidato al deciso intervento dell'imperatore Teodosio I, anche lui devoto niceno, il quale, nell'editto di Tessalonica del 380, da lui indirizzato al popolo di Costantinopoli, ma fatto valere per tutti gli abitanti dell'impero, l'anno successivo alla promulgazione del suo editto, Teodosio convocò i vescovi dell'Oriente per un concilio da tenersi nella capitale Costantinopoli. E per questo si può dire che tale concilio fu il concilio dei padri cappadoci. A questo secondo concilio ecumenico di Costantinopoli del 381 parteciparono 150 vescovi. L'esigenza fondamentale era costituita dalla formulazione di un credo che ribadisse le precedenti conclusioni del concilio di Nicea, svoltosi nel 325, e che condannasse la dottrina di coloro che non ammettevano la divinità dello Spirito Santo. In questo modo, tale concilio portò a termine la definizione della dottrina trinitaria. Durante questo concilio prese forma quello che è chiamato il credo niceno costantinopolitano, tuttora in uso presso la stragrande maggioranza delle comunità cristiane. Eccolo in traduzione italiana. Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili, e in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato. Della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose. Per noi uomini e per la nostra salvezza egli discese dal cielo, si è incarnato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine e divenne, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Patì, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, salì al cielo e siede alla destra del Padre, verrà nuovamente nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. E nello Spirito Santo, che è il Signore da vita, che procede dal Padre, che insieme al Padre e al Figlio deve essere adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. E nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, confessiamo un solo battesimo per la remissione dei peccati, aspettiamo la resurrezione dei morti e la vita del secolo futuro. A mio avviso, quello che in questo credo è, se invece di scrivere che Gesù è stato generato dal Padre, avessero scritto che Gesù è stato mandato dal Padre, espressione del resto biblica, avrebbero tolto un ostacolo non indifferente. Tre furono le eresie condannate a Costantinopoli: l'arianesimo, il macedonismo e l'apollinarismo. La condanna all'arianesimo era fuori di dubbio, al punto che l'anno seguente, durante un altro concilio, i vescovi partecipanti a Costantinopoli scrissero a Roma dichiarando di credere in un'unica divinità, nella potenza e nella sostanza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, uguali in dignità e coeterni in maestà tra ipostasi o persone perfette. Un sommario questo della fede, espressa al Concilio di Nicea. Fra tutti i vescovi intervenuti al concilio, 36 erano macedoniani. Credevano, cioè, nella divinità del Figlio, ma sostenevano che lo Spirito Santo fosse una creatura. Anche se nel credo niceno-costantinopolitano era stata dichiarata indirettamente e con diplomazia la divinità dello Spirito Santo, i vescovi macedoniani abbandonarono il concilio in segno di disapprovazione. L'apollinarismo è invece quella corrente di pensiero che deriva da Apollinare, un vescovo di Roma già condannato per eresia nel 377, perché credeva che Gesù avesse un'anima umana. Affermando il concilio che Gesù Cristo è pienamente Dio e pienamente uomo, aveva salvato il cristianesimo da alcune infiltrazioni eretiche. Oltre ad avere una importanza dottrinale, il Concilio di Costantinopoli gettò un sano e doveroso principio che in seguito divenne il più pericoloso di tutta la storia della Chiesa, quello di appellarsi alla tradizione. Infatti, per la prima volta, i vescovi si appellano all'autorevolezza del parere dei precedenti, e cioè del Concilio di Nicea e dei padri della Chiesa, per sostenere l'ortodossia o la validità di una dottrina. Prende così corpo un concetto di tradizione non più intesa esclusivamente come fedeltà nella trasmissione del messaggio evangelico di Gesù, ma come allusiva linea di insegnamento che intende esplicare, integrare, completare quanto detto del testo biblico, affiancandolo, pur lodando il principio di questi credenti. Dobbiamo riconoscere la strumentalizzazione della tradizione, soprattutto nel cattolicesimo romano, quando si appella alla tradizione dei padri per sostenere eresie, mentre tace clamorosamente su altri aspetti sollevati dagli stessi padri, i quali andrebbero clamorosamente a contraddire alcune dottrine e dogmi del romanesimo. Un esempio. La pretesa del Papa di essere la guida universale della cristianità, espressa soprattutto da Leone Magno, fu contraddetta da Agostino di Ippona, assieme al suo illustre compaesano Cipriano, e dissentita anche dalla teologia bizantina. La tradizione è un pozzo senza fondo dal quale si può attingere ciò che si vuole, perché i padri della Chiesa hanno detto di tutto e di più, perfino, come abbiamo considerato, delle eresie. Nulla di nuovo, quindi, se il cattolicesimo romano proclama anche eresie. Il Concilio di Costantinopoli in origine fu solo un'assemblea di vescovi orientali, la quale per 70 anni non fu tenuta in troppa considerazione, forse perché, come era uso nei sinodi, vi era mancanza di educazione e, ancor di più, di moralità fra gli stessi vescovi. Gettò luce su questo concilio un venerabile padre presente fra gli altri, Gregorio Nazianzeno, l'unico dei padri a non essere mai stato accusato di aver commesso errori dottrinali nei suoi scritti. A lui è stato attribuito questo detto: «Se debbo dire la verità, sono disposto a fuggire qualsiasi assemblea di vescovi perché non ho visto risultare da un solo sinodo una qualche proficua conclusione, ma una addizione di mali, anziché una diminuzione, dato che soprattutto prevale lo spirito di parte e la sete di superiorità». Ecco come ha descritto il comportamento dei vescovi in un sinodo. Essi sono camaleonti che mutano il loro colore con ogni pietra su cui camminano. Illetterati, di umile nascita, ripieni di tutto l'orgoglio dei villani rifatti, freschi dei banchi di falsi testimoni, disertori dall'esercito della marina, ancora puzzolenti delle stive delle navi. Mi si potrebbe dire che anche gli apostoli erano ignoranti, giusto, ma datemi un vero apostolo e io lo venererò, per illetterato che sia. Ma questi sono opportunisti, che non servono Dio ma il crescere o il calare della marea, o la paglia al vento, leoni feroci di fronte al debole indifeso, cani servili di fronte al forte. lusingatori di donne, fedeli alle buone mense, sempre all'uscio del potente e non del saggio, incapaci essi stessi di parlare, ma con sufficiente senso di chiudere la bocca a quelli che sono in grado di parlare, presi frenati dalla loro elevazione, ostentanti maniere non loro, la barba lunga, concili e congressi li salutano a distanza. Da essi, per usare termini moderati, noi abbiamo sofferto molti mali. Io non siederò in un solo di questi concili, di oche e di gru. Rifuggo da ogni convegno di vescovi, perché non ho mai veduto in alcuno di essi una buona fine, e neppure una diminuzione di mali, ma piuttosto un aumento. Il terzo concilio ecumenico fu riunito a Efeso nel 431. Ecco gli avvenimenti che precedettero il concilio. Dopo le acute e laceranti controversie relative alla definizione dei rapporti nell'ambito della divinità, tra Dio il Padre e Gesù in quanto figlio, la cristianità orientale fu scossa da una serie di lunghi e sottili contrasti, tendenti a definire il rapporto tra la componente divina e quella umana nella persona di Gesù. Dobbiamo riconoscere che la varietà sconcertante degli atteggiamenti e delle proposte di definizione formulate da vescovi e teologi è da considerarsi una spia delle difficoltà insite nel problema stesso. Chiarire con una definizione valida per tutti una serie di quesiti di fede, sui quali, tra l'altro, la norma cristiana e la scrittura non presentavano un insegnamento esplicito. Si trattava ancora una volta di tradurre il messaggio cristologico del Nuovo Testamento per sua natura connesso imprescindibilmente all'universo concettuale e religioso giudaico nelle complesse categorie esso estranee della filosofia. Inoltre, la riflessione religiosa era inquinata da condizionamenti di tipo politico. Le grandi sedi patriarcali si ergevano antagoniste tra loro. Gli imperatori interferivano nella vita della cristianità. Le guide religiose erano spesso motivate da conflittualità personali e da umane ambizioni. In questo clima della terza decade del V secolo, due grandi personalità si affrontarono nell'ampio scenario della cristianità orientale. Nestorio, patriarca di Costantinopoli di formazione teologica antiochena, e Cirillo, patriarca di Alessandria. Il conflitto emerse quando Nestorio non esitò a denunciare con decisione un uso ben radicato nella pietà del tempo, la designazione di Maria, madre di Gesù, come madre di Dio. Contro questa espressione, Nestorio fece notare che si sarebbe piuttosto dovuto parlare soltanto di madre di Cristo, perché nella persona di Gesù la componente umana andava distinta da quella divina. A Cirillo venne servita una occasione d'oro per intraprendere una campagna denigratoria contro il suo avversario, metterlo sotto accusa e manovrare per una sua condanna definitiva in sede di concilio. Pertanto l'imperatore Teodosio II convocò un concilio ecumenico a Efeso nel 431. In quell'occasione Cirillo impose la condanna e l'esilio di Nestorio, ma i partigiani di Nestorio proclamarono una scomunica per Cirillo. L'imperatore, sconcertato dalla rissosità di queste assemblee, ritenne di confermare le due scomuniche e di comminare l'esilio per i due rivali. Cirillo, però, seppe affermarsi, forte di un ampio seguito. Nestorio, invece, non ebbe più modo di riprendersi dalla condanna infertagli. Comunque sia, la controversia nestoriana diede corso ad una disputa sull'attribuzione a Maria del titolo di Madre di Dio, negato dal patriarca Nestorio ma ampiamente diffuso specialmente tra il popolo. Il concilio di Efeso, condannando Nestorio, non soltanto sancì la liceità di questa designazione, ma costituì anche una importante tappa in quel processo di sviluppo della riflessione religiosa incentrata sulla figura di Maria. Si tratta di uno sviluppo che era partito da sobri e delicati accenni alla madre di Gesù contenuti nei Vangeli, per giungere ai corposi trattati teologici del Medioevo e oltre, i quali perverranno a proclamare Maria mediatrice tra Dio e l'umanità, configurando di fatto sempre più un vero e proprio culto mariano. La pietà mariana sarà sempre più coltivata e promossa dai credenti d'Oriente e, ancora di più, da quelli d'Occidente, nutrendosi con il passare dei secoli di forme e contenuti estranei al semplice precetto biblico. Il Vangelo di Marco, per esempio ritenuto il più antico, contiene soltanto due accenni a Maria, 3.3, 4.35, 6.3, mentre l'Evangelista Luca la ricorda a proposito dell'annunciazione della sua nascita e della visita dei pastori, ne riporta il Magnificat, ne parla nei capitoli dedicati all'infanzia di Gesù. Nel libro degli Atti, poi, troviamo Maria, a Gerusalemme perseverante nella preghiera con gli apostoli. Nel Vangelo di Matteo vi è un riferimento mariano quando attribuisce la nascita di Gesù alla profezia di Isaia 7.1.4, cioè la nascita virginale di Gesù. Nessun accenno, invece, nel Vangelo di Giovanni. Sono invece i Vangeli apocrifi a tessere sul conto di Maria lodi e leggende che sempre più ne distaccheranno il profilo della dimensione umana, come la nascita miracolosa di Maria da Gioacchino e Anna, della sua perpetua verginità, delle nozze con il canuto Giuseppe, il quale aveva avuto figli da un precedente matrimonio, e dei fratelli di Gesù di cui parlano i Vangeli e che non avrebbero potuto essere figli della sempre Vergine Maria. È bene ricordare che perfino Girolamo, il traduttore della Bibbia nella versione latina, non riteneva validi per la fede cristiana i libri apocrifi. In ogni caso, il culto mariano fu anticipato dalla pietà popolare e soltanto successivamente recepito dalla speculazione dotta degli ecclesiastici. Il consueto non coglie più lo straordinario. Come per me l'andare a Maranello, il paese della Ferrari famosa in tutto il mondo, è una cosa del tutto ordinaria, mentre milioni di persone vengono dall'altra parte del pianeta per visitarlo. Così non è più una novità questa deviazione religiosa da Gesù, il centro del messaggio del Vangelo, a Maria e a tutto ciò che è ritenuto sacro come le reliquie. Se si naviga in internet, per esempio, si sa che il capo di Giovanni Battista è conservato nella chiesa di San Silvestro in Capite a Roma, ma una tradizione precedente lo voleva nella cattedrale d'Amiens. Comunque il capo custodito a Roma sarebbe senza la mandibola, la quale sarebbe conservata nella cattedrale di San Lorenzo a Viterbo. Il piatto che ha accolto la testa del Battista è a Genova, nel tesoro della cattedrale di San Lorenzo assieme alle ceneri del santo. Ma parte di queste ceneri sono anche conservate nell'antica chiesa del monastero delle Benedettine di Loano, mentre un dito si troverebbe nel museo dell'Opera del Duomo di Firenze, un braccio nella cattedrale di Siena, la mandibola di San Lorenzo a Viterbo. Dei denti uno sta nella cattedrale di Ragusa e un altro, assieme ad una ciocca di capelli, a Monza. La vera croce è stata trovata a Gerusalemme da Sant'Elena, mentre dei chiodi uno sarebbe conservato nella chiesa di Santa Croce, in Gerusalemme a Roma. La corona di spine a lungo conservata a Costantinopoli è stata suddivisa nell'intento di donare almeno una spina a chiese e a santuari. La sacra lancia, già appartenuta a Carlo Magno e ai suoi successori, oggi si trova a Vienna. Il prepuzio di Gesù era esposto a Calcata, Viterbo, fino a che, nel 1970, il parroco ne ha comunicato il furto. Il sangue scaturito dalla ferita del costato di Gesù raccolto da Longino sarebbe stato portato a Mantova, ma altro sangue è conservato nella Basilica del Sacro Sangue a Brugesempio. La Sacra Culla è a Santa Maria Maggiore, mentre la Sacra Sindone è a Torino. Le fasce del bambino Gesù sono ad Aquisgrana, mentre la tovaglia usata da Cristo per la lavanda dei piedi degli apostoli è sia nella chiesa romana di San Giovanni in Laterano, sia in Germania, ad ACQS, perché non è escluso che abbia usato due tovaglie o abbia lavato i piedi due volte. In molte chiese sono conservati i capelli o il latte di Maria, l'anello delle nozze con Giuseppe sarebbe a Perugia, ma quello di fidanzamento è a Notre Dame a Parigi. Perché ricordare queste tristezze? Perché a volte, se non basta la pazzia del Vangelo, una vomitata di pazzia, di insana religiosità, può rinsavire. Veniamo ora al quarto concilio ecumenico di Calcedonia. Nel 440 l'anziano monaco Eutiche era pervenuto alla guida morale dei monaci di Costantinopoli. Egli andava insegnando che le due nature di Gesù, quella umana e quella divina, erano distinte prima dell'incarnazione, ma che dopo questo evento si sarebbe dovuto parlare di una sola natura. Il suo insegnamento era: confesso che nostro Signore avesse due nature prima della loro unione, ma che ne avesse una sola dopo l'unione. Ne conseguiva che l'umanità di Gesù non era da considerarsi uguale alla nostra, bensì divinizzata. La dottrina non mancò di esercitare una cospicua forza di attrazione, anche perché in considerazione del fatto che, secondo essa, il credente assimilandosi a Cristo, veniva conseguentemente a realizzare una sua divinizzazione. Un pensiero decisamente platonico. Le discussioni e le controversie sollevate dalla predicazione di Eutiche determinarono la necessità di sollecitare un pronunciamento definitivo. E questo si ebbe con il Concilio di Calcedonia che si tenne nel 451 nella chiesa di Sant'Eufemia, voluto da Marciano, successore di Teodosio II. A esso parteciparono più di 500 vescovi, dei quali solo 5 occidentali, tra cui 2 legali papali. L'imperatore prese parte con la moglie Pulcheria, sorella di Teodosio II, che tenne a volte perfino la presidenza dell'assise. Le sessioni condussero alla riconferma delle decisioni conciliari di Nicea, 325, Costantinopoli, 381, e di Efeso, 431, e alla condanna di Eutiche e del vescovo egiziano Dioscuro. Fu approvato un bilanciato pronunciamento teologico composto dal Papa di Roma Leone I, che servì di base a una professione di fede che condannava a un tempo le dottrine di Nestorio e di Eutiche. Noi insegniamo e professiamo un unico e identico Cristo in 2 nature, non confuse e non trasformate, non divise e non separate, poiché l'unione delle 2 nature non ha soppresso la loro differenza, anzi ciascuna natura ha conservato le sue proprietà e si è unita all'altra in un'unica persona e in un'unica ipostasi. Dunque, in Gesù la natura divina e quella umana sussistevano senza confusione. Da allora i sostenitori di questa formula furono chiamati duofisiti, mentre coloro che non vollero accettarla monofisiti. I vescovi avrebbero voluto fermarsi lì, ma l'imperatore era deciso a ottenere una confessione di fede che unisse l'impero. Nacque così la definizione calcedoniana con l'intento di mettere in risalto 4 punti in opposizione alle 4 antiche eresie. In Gesù Cristo la vera divinità contro Ario e la piena umanità contro Apollinare sono unite in modo inscindibile in un'unica persona contro Nestorio, senza confondersi l'una con l'altra contro Eutiche. Furono indetti altri concili, ma gli storici ammettono di vedervi semplicemente delle dispute di parole, anche perché giova ricordare che i vescovi, oltre che alle sottili disquisizioni teologiche, erano molto più attenti agli equilibri di potere. Infatti, gli esili e le condanne che l'imperatore combinò contro Eutiche, Dioscuro e i loro seguaci incontrarono forti resistenze e diedero origine a reazioni di tipo politico e nazionalistico. Venne così accentuato quel processo di ascesa e di affermazione delle identità nazionali, la cui fase iniziale si manifestava nella seconda metà del secolo III, in coincidenza con la crisi dell'impero romano. Inoltre, il Concilio di Calcedonia stabilì il ruolo dei patriarchi. A Roma, Alessandria e Antiochia andò ad affiancarsi Gerusalemme, mentre Costantinopoli, in particolare, ebbe riconfermato il suo primato di dignità accanto a Roma. Le controversie cristologiche del IV secolo alla fine condussero alla lacerazione della cristianità orientale, determinandone i seguenti 3 raggruppamenti. 1. Coloro che accettarono le deliberazioni dei concili di Efeso e di Calcedonia e che si riconoscevano in una ortodossia espressa dalla sede patriarcale di Costantinopoli, detta pertanto bizantina. 2. Coloro che non accettarono le definizioni del Concilio di Efeso del 431 e pertanto non ritennero di dover condannare le formule cristologiche di Nestorio. Dai loro principi scaturirono le comunità d'Oriente dette anche nestoriane. 3. Coloro che non accettarono le definizioni del Concilio di Calcedonia del 451, come le comunità armena, copta, etiopica, siriana, definite poi monofisite, ma in realtà erano semplicemente non calcedoniane. Di nuovo corre ricordare che tali tensioni e divisioni non si realizzarono per motivi malvagi, ma i primi seguaci del messaggio di Cristo, ognuno per conto proprio, erano assolutamente convinti di essere nel vero. E di conseguenza il dissenziente era fonte di errore, quindi a volte doveva essere eliminato anche fisicamente, tanto che, come qualcuno ha fatto notare, le repressioni fra cristiani hanno mietuto probabilmente più vittime di quante non ne siano cadute all'epoca delle persecuzioni promosse dai pagani. Da sofferente la Chiesa divenne opprimente. Se oggi il cristianesimo è anche disprezzato, la colpa non cade solo sugli increduli. Avviene così che l'organizzazione della Chiesa in quell'epoca si presenta ben diversa da quella più antica. È opportuno perciò tracciarne l'evolversi. Nei primi tempi, cioè all'epoca del Nuovo Testamento, a Gerusalemme vigoreggiava la figura di Giacomo, fratellastro di Gesù, oltre a quella di Pietro e di Giovanni, insieme agli altri apostoli che erano stati al seguito di Gesù. Da molteplici indizi, deduciamo che Giacomo sia stata la guida più autorevole e ascoltata della comunità, forse proprio per il suo status di fratello del Signore. Il nucleo dei familiari non si esaurì con Giacomo. Sappiamo che alla sua morte nel 62 gli successe Simone, cugino di Gesù. Tra gli scritti del Nuovo Testamento vi è inoltre una lettera attribuita a Giuda, altro fratellastro di Gesù. Secondo una tradizione collocata alla fine del primo secolo, i nipoti di Giuda erano alla guida delle comunità cristiane in Giudea. Ma altrove, per esempio, dove si diffondeva la predicazione di Paolo di Tarso, nascevano comunità guidate da presbiteri o anziani. Nel secolo seguente, con la crisi del cristianesimo d'impronta giudaica, nel seno del collegio presbiteriale, si affermò la figura unica di un anziano che fu detto vescovo per antonomasia, cioè un nome retorico. Nel terzo secolo questo processo è pienamente definitivo. Emergono i vescovi metropolitani intorno ai quali ruotano i colleghi di minor rango. Con la pace concessa alla Chiesa da Costantino e l'accorpamento delle varie province in diocesi amministrative, si ebbero due fenomeni. Uno, l'affermarsi ormai istituzionale, nel territorio di una diocesi dei vescovi di alcune città comunità guida. 2. L'intensificarsi dei concili, i quali ormai con la pace e l'aperto favore degli imperatori potevano guidare non solo una singola regione, bensì l'impero mediante i concili ecumenici. Nei secoli IV, V e VI, questi concili furono sempre attenti agli equilibri di potere tra le principali sedi episcopali. In Occidente, Roma si affermò non solo in quanto antica capitale e residenza imperiale, ma anche grazie al presupposto del martirio di Paolo e Pietro. In Oriente, dopo che Alessandria, Gerusalemme e Antiochia furono conquistate dagli arabi, la sede di Costantinopoli si affermò incontrastata in quanto patriarcato ecumenico, un termine allusivo all'universalità del dominio da essa esercitato. Ma che valore dobbiamo dare ai concili? L'imperatore Giustiniano ordinò che le decisioni dei concili avessero la forza di vere e proprie leggi, aggiungendo: noi riceviamo e accettiamo i dogmi di questi quattro sinodi, come le sacre scritture. Gregorio Magno disse di venerare questi quattro concili al pari dei quattro Vangeli, definendoli come i quattro pilastri su cui poggia l'edificio della fede. Ma la Chiesa nascente non li ricevette affatto come infallibili. Un fatto, questo, messo in evidenza da Agostino nel corso di un ragionamento esposto a Massimino Lariano, quando erano state tirate in ballo le autorità dei concili di Nicea e di Rimini. Non dobbiamo ricorrere io all'autorità di Nicea contro di te e tu a quella di Rimini contro di me. Io non riconosco l'una come tu non riconosci l'altra. Veniamo invece a un terreno che è comune ad entrambi: la testimonianza delle sacre scritture. Da ciò appare che la questione non era tanto riconoscere l'infallibilità dei concili, quanto invece l'autorità della scrittura. E le decisioni dei concili erano accettate solo quando potevano venir provate mediante la sacra scrittura. E solo in questo senso che le chiese di oggi accettano e riconoscono il valore dei concili, non perché siano infallibili, ma perché hanno definito saggiamente certe verità. Diventa quindi fazioso l'appellarsi del continuo ai concili o all'autorità esegetica dei padri per appoggiare la validità delle proprie opinioni in merito alla fede che si trasmette. Fino a poco tempo fa, troviamo scritto nel grande commentario esegetico cattolico 1974, meno senti. Gli esegeti cattolici insegnanti nei seminari dovevano ogni anno giurare di interpretare la scrittura secondo l'unanime consenso dei padri. L'istruzione del 1964 della Commissione Biblica continua ad insistere che l'esegeta cattolico, seguendo le guida della Chiesa, tragga profitto da tutti gli interpreti precedenti, specialmente i santi padri e i dottori della Chiesa. Pag. 1637. Così troviamo anche scritto all'inizio nella pubblicazione dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa, continuando il tema dei precedenti concili, intende, con maggiore chiarezza, illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura e la sua missione universale. Così, nei suoi riferimenti troviamo decine e decine di riferimenti ai padri della Chiesa, ai concili ecumenici, senza rendersi conto che usa concili, padri, encicliche, sacra scrittura, l'autorità patristica e altro per dire quello che vuole dire. Come quel bambino che faceva sempre centro con l'arco. Prima tirava la freccia, poi disegnava intorno alla punta dei cerchi. O come i testimoni di Geova. Prima hanno deciso che Gesù non sia Dio di uguale natura come il Padre. Poi trovano tutti i versetti che possono apparentemente indicare la loro opinione. Comportamento. Del resto, comune a molti. Conclusisi i dibattiti intorno alla persona di Gesù con i quattro concili ecumenici, il secolo VIII fu segnato da due avvenimenti che interessarono sia l'Oriente sia l'Occidente cristiano. L'Occidente visse il più rilevante momento di separazione dall'Oriente soprattutto con l'incoronazione di Carlo Magno da parte del Papa, mentre l'Oriente fu travagliato dalla grande controversia in merito all'uso religioso delle immagini. Per purificare la vita religiosa e per arginare l'influenza dei monaci, l'imperatore Leone III, nel 726, promulgò un editto relativo alle immagini sacre, in virtù del quale queste venivano non già destinate alla distruzione, bensì solo sospese in alto, per sottrarle all'adorazione dei fedeli. L'editto suscitò delle reazioni di protesta, sia in Grecia sia in Italia, dove il Papa Gregorio II, in un sinodo romano, scomunicò gli avversari delle immagini. La controversia continuò e si inasprì sotto il regno di Costantino V, 741-775, il quale si impegnò ancora più accanitamente contro l'uso devozionale delle immagini. E tentò di mitigare il diffusissimo culto alla Vergine e il ricorso all'intercessione dei santi. In questo contesto si inserisce il Concilio di Eria del 753, il quale condannò solennemente e senza mezzi termini il culto delle icone, cosa fatta anche dall'imperatore Leone III Isaurico. La successiva ascesa al trono dell'imperatrice Irene, donna assetata di potere, vide una inversione di tendenza. Il Concilio di Nicea del 787 stabilisce la liceità dell'uso liturgico delle immagini. L'imperatore Niciforo 802-811, che era succeduto a Irene con un colpo di Stato, desiderava ristabilire l'iconoclastia, la dottrina avversa all'uso delle immagini, dei suoi successori. La reazione dei monaci con l'aiuto del Papa di Roma fece esasperare una seconda controversia, che travagliò l'impero per altri 30 anni, 813-842. Queste lacerazioni ebbero finalmente termine, grazie all'intervento dell'imperatrice Teodora, moglie del defunto imperatore Teofilo, la quale con il concilio dell'843 stabilisce una volta per sempre la liceità della fabbricazione e del culto delle icone. Nel catechismo della Chiesa Cattolica troviamo scritto: il culto cristiano delle immagini non è contrario al primo comandamento, 2132. Che dire? Per quanto un concilio e una religione possano affermare, una cosa è certa. Gesù disse al diavolo: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Bibbia Cei. Chi si deve ascoltare, gli uomini o Dio? Poiché i concili per il cattolicesimo costituiscono le basi per ogni altra verità, occorre fare un ulteriore ragionamento che prenderemo in prestito da chi ha fatto sagge riflessioni. Nel nostro Parlamento una legge può essere approvata nonostante l'opposizione, e la minoranza deve sottomettersi e obbedire alla legge. Però, idealmente, coloro che sono in minoranza rimangono liberi e possono ancora professarsi contrari a quanto è stato legiferato in opposizione alle loro opinioni. Ma quando in un concilio si è giunti ad un voto, viene chiesto alla minoranza di dimenticare completamente i mezzi indegni e sleali con cui è stata vinta la loro resistenza, essendo loro imposto di accettare il voto di una maggioranza, non importa come quale voce dello Spirito di Dio. Dal momento in cui viene pronunciata la definizione, essi sono vincolati non solo ad un atteggiamento formale di obbedienza, ma dal profondo del loro cuore, a credere come assolutamente vero proprio quello che pochi momenti prima consideravano falso, e a rendere al mondo pubblica manifestazione di fede in tal senso. Perciò, quando si crede nell'infallibilità di un concilio di vescovi, ci si riferisce solo al voto conclusivo, e ne consegue che la maggioranza non ha alcuna necessità di tener conto degli opposti ragionamenti. Assicurato il voto, non importa come, tutto è a posto. In tal modo, dato che la maggior via per giungere alla verità è di consigliarsi con altri, ne deriva che un concilio che vanta l'infallibilità è un convegno in cui i saggi e i cauti vengono sopraffatti, ridotti all'impotenza, dall'imposizione di una maggioranza tirannica. E, stato il caso dei concili delle icone, dove la definizione del lecito e dell'illecito è stata dettata non da credenti che, postisi in preghiera e all'ascolto della parola di Dio, hanno tratto delle conclusioni, ma da uomini e donne assetati di potere politico. E così, il concilio di Nicea del 787 dichiarava non solo lecite, ma anche utili le immagini sacre, mentre un altro concilio, quello di Santa Sofia, svoltosi nell'815, decretò la distruzione delle immagini e, anche, l'eliminazione fisica di coloro che ne erano a favore. Com'è possibile rimanere indifferenti di fronte a queste contraddizioni? Può un credente con tutta serenità far dipendere la sua sorte eterna dai concili? Poiché questo nostro esame in merito ai concili potrebbe andare oltre misura, vorrei concludere con una riflessione che ci porta ai nostri giorni in modo ancor più drammatico. Abbiamo considerato che i primi credenti al tempo degli apostoli e durante i primi secoli avevano per lo più un solo problema: la divinità di Gesù e la sua relazione con il Padre. Problema questo, protratto a causa del condizionamento da una cultura ellenistica o greco-romana. Non avevano, tuttavia, per nulla uno dei dubbi che oggi travagliano la cultura cosiddetta cristiana, cioè il valore delle opere in relazione alla salvezza dell'uomo. E una cosa che ben pochi scrittori hanno messo in evidenza è che, alla luce dell'esame dei primi concili ecumenici, 4 o 7 che siano, salta fuori con una evidenza macroscopica in quanto assolutamente taciuto. Perché parlare delle opere e non di altre problematiche come l'autorità del Papa? Prima di tutto perché il cattolicesimo, come ogni altra religione, basa tutto sulle opere. È vero che proclama la salvezza dell'uomo per la grazia di Dio, ma questa non basta. Così recita il catechismo. I meriti delle opere buone devono essere attribuiti innanzitutto alla grazia di Dio, poi al fedele. 2008. Come rispondere? Prima di tutto, fino alla venuta di Gesù, nessun credente avrebbe mai pensato di meritare la salvezza per mezzo delle opere. Era una cosa assurda, perché tutti sapevano di essere mancanti davanti a Dio. Paolo stesso riconobbe che i patriarchi erano giustificati per fede. Un'altra ragione per la quale si parla di opere è data dal fatto che i credenti in Cristo dei primi secoli non avrebbero mai pensato che i meriti delle opere fossero anche attribuiti a loro. Ne è una prova che nelle confessioni di fede non se ne fa un minimo accenno. Inoltre, quando è iniziata la Riforma, Lutero, nelle sue 95 tesi, non fa neppure un accenno alla giustificazione per fede. Evidentemente, la disputa in merito alla salvezza per opere non era ancora sentita. E siamo nel XVI secolo. Conclusione. Dopo questa carrellata di storia del cristianesimo, appare chiaro che uomini e donne hanno lasciato una impronta umana indelebile nel campo religioso e spesse volte difettosa, per cui è sempre più urgente seguire l'esempio di Agostino. L'importante non sono le decisioni dei concili, ma seguire le indicazioni e gli ordini della Sacra Scrittura. Gesù Cristo, che apparteneva ad un popolo con 2000 anni di storia religiosa, non citò nessuna definizione umana, come fece invece per alcuni proverbi, ma disse al diavolo che lo tentava: «Sta scritto. Ogni altra presa di posizione è idolatria». Giugno 2009, Ellero. Uno scritto di Stott che Elena ha corretto per un libro, perciò non so a quale libro è riferito. Giustino Martire sottolineò la continuità esistente fra il Nuovo Testamento e l'Antico, in virtù della quale il Vangelo non costituiva una novità. Al contrario, Gesù era contemporaneamente l'adempimento della scrittura e della filosofia. Tuttavia, Gesù di Nazareth doveva ancora essere capito. Di conseguenza, durante il IV e V secolo, si svolse un serio dibattito cristologico che impegnò i leader delle chiese per 150 anni. I primi quattro sinodi, diventati noti come concili ecumenici, fecero registrare dei progressi in direzione di un accordo. Il miglior modo per capirli, forse, è dividerli in due coppie. Così, il concilio di Nicea, 325, garantì che Gesù è veramente Dio, mentre il concilio di Costantinopoli, 381, assicurò che Gesù è realmente uomo. In seguito il concilio di Efeso, 431, stabilì che pur essendo sia Dio sia uomo, Gesù è un'unica persona, mentre il concilio di Calcedonia, 451, avvallò che nell'unica persona di Gesù coesistevano due nature, quella divina e quella umana. Si trattò di una complessa evoluzione, spesso deturpata da incresciose dimostrazioni di rabbia, gelosia, malizia e intrigo politico. Eppure nel contempo si può percepire l'opera paziente dello Spirito Santo per rendere la Chiesa in grado di chiarirsi le idee in merito alla propria cristologia. Per primo si tenne il Concilio di Nicea, 325. Esso fu reso necessario a causa della dottrina del presbitero Ario. Egli andava affermando che Gesù non era Dio, sebbene fosse la prima e la più eccelsa fra tutte le creature. Egli non era eterno, poiché aveva un inizio, un tempo non esisteva. E inoltre giunse all'esistenza dal nulla. Quindi l'imperatore Costantino convocò un'assemblea con il proposito di promuovere l'unità e la pace. Vi parteciparono oltre 200 vescovi provenienti per la maggior parte dall'Oriente, parecchi dei quali menomati e sfregiati a causa delle recenti persecuzioni. Ario fu condannato dal concilio, il quale pubblicò il Credo di Nicea, da non confondersi con quello di Nicene, dove si dichiarava che il nostro Signore Gesù Cristo fu generato e non creato, della stessa sostanza homoousios del Padre. Per quanto alcuni vescovi si mostrassero titubanti riguardo a questi termini a causa della loro estraneità alla Bibbia, la gran parte di loro li accettò, e il concilio conquistò una memorabile vittoria in favore della totale deità di Gesù. In un secondo tempo, l'imperatore Teodosio adunò il concilio di Costantinopoli, 381. A provocare questa adunanza fu l'insegnamento di Apollinario, il quale negava che Gesù avesse una mente o anima umana. Quindi adesso, dopo aver dichiarato nuovamente per contrastare Ario la perfetta deità di Gesù, il concilio ne affermò anche la perfetta umanità, in opposizione a Apollinario. Ma in questo caso, come poteva essere una sola persona? Ecco presentarsi il successivo quesito. Il terzo concilio fu quello di Efeso, 431, riunito per esaminare la divulgazione del vescovo Nestore di Costantinopoli. Nestore era accusato di separare Cristo in due persone, ossia Dio la parola e Gesù l'uomo, e di asserire che nell'uomo risieda la parola. Egli fu contrastato da Cirillo di Alessandria, il quale insisteva sull'incarnazione, ben distinta da una permanenza. La parola diventò concretamente carne, unendosi perfettamente alla natura umana. Per quarto, si tenne il concilio di Calcedonia, 451, presenziato da circa 500 vescovi e convocato per occuparsi dell'insegnamento degli Eutichiti, che fondevano in un'unica natura, quella divina, l'umanità e la divinità di Gesù. Si trattava dei monofisiti, la gente di una sola natura. Essi trovano i loro attuali successori nei membri della Chiesa copta ortodossa e in quella ortodossa etiopica. A loro si oppose Papa Leone il Grande, vescovo di Roma, dal 440 al 461. Il suo famoso tomo confutava gli Eutichiti e fu letto e approvato dal concilio. L'adunanza produsse la cosiddetta definizione di Calcedonia, dove si pone in rilievo che, pur essendo una sola persona, Gesù possiede due nature ben distinte. Essa include quanto segue. Confessiamo all'unisono che il solo e unico Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, è perfetto. Nella sua divinità e nella sua umanità, vero Dio e vero uomo. E, di una sola sostanza, homoousios con il Padre come Dio, e anche di una sola sostanza homoousios con noi, come uomo, fu generato dal Padre prima dei tempi, ma in questi ultimi giorni, e per la nostra salvezza, egli nacque dalla Vergine Maria. Questo solo e medesimo Cristo è manifestato in due nature senza confusione, senza mutamento, senza distinzione, senza separazione. Oggi alcuni cristiani fremono davanti a ciò che ai loro occhi sembra una discussione in merito ai termini, ma è possibile replicare sostenendo parecchie tesi. Primo, i padri della Chiesa, esenti dalla contaminazione della nostra cultura postmoderna, erano profondamente interessati alla verità su Dio e scorgevano la necessità di combattere i falsi dottori, come Ario, Apollinario e gli Eutichiti. Avessimo ancora oggi uno zelo pari a loro. Secondo, essi ritenevano che il dibattito concernente la cristologia fosse una discussione in merito alla salvezza, perché soltanto un salvatore che fosse perfettamente divino e completamente umano poteva rappresentare le due parti e riconciliarci con Dio. Terzo, fecero talmente bene il lavoro al punto che si è conservato nel tempo. A esempio, i riformatori del XVI secolo, i quali si impegnarono in una controversia con la Chiesa di Roma in merito alla supremazia e alla sufficienza della Scrittura e riguardo alla giustificazione per sola fede, non ritennero necessario alterare le dichiarazioni cristologiche elaborate nei secoli precedenti. Al contrario, le sottoscrissero. Per questo il secondo articolo anglicano 1563 cita: il Figlio, che è la parola del Padre, generato dall'eternità del Padre, vero e eterno Dio, della stessa sostanza del Padre, si incarnò nel grembo della Vergine benedetta, della sostanza di lei, così che le due complete e perfette nature, ossia la divinità e l'umanità, furono riunite in una sola persona per non essere mai divise, delle quali è un Cristo, vero uomo e vero Dio. Quarto, i riformatori furono in grado di attestare questa dottrina perché ne riconobbero il fondamento fortemente biblico. Come scrisse B.B. Warfield di Princeton, la cristologia di Calcedonia è unicamente una sintesi eccellente dei dati biblici. Nota 7. Quinto, nonostante la nostra ammirazione per il cauto equilibrio mostrato dai padri della Chiesa, nell'opera di definizione ammettiamo di essere limitati e imperfetti, che Dio nella sua infinita perfezione è del tutto superiore a noi e che l'incarnazione è un mistero da dovere indubbiamente continuare a esplorare per l'eternità. Sesto, è indice di saggezza e di umiltà accettare l'antinomia definitiva, senza supporre di essere in grado di risolverla. Papa Leone scrisse nel suo tomo: Cristo è Dio e Cristo è uomo. Le due nature coesistono. Né una né l'altra natura sottrae o aggiunge alcuna cosa alle proprietà dell'altra. Nessuno si espresse meglio dell'eminente Charles Simeon di Cambridge, per 54 anni vicario della Holy Trinity Church agli esordi del XIX secolo, il quale esercitò un profondo impatto su generazioni di studenti. Ecco ciò su cui egli incalzò: la verità non si trova al centro, né a un solo estremo, ma alle due estremità. Nota 8. Simeon stava parlando in merito alla sovranità divina e alla responsabilità umana. Ma il principio è ugualmente applicabile alla persona di Gesù Cristo. Egli non era Dio che pretendeva di essere umano, né tantomeno un essere umano con divine facoltà, neppure semidivino e semiumano, ma totalmente umano e completamente divino, il solo Dio uomo.